Il punto di Stefano Folli. La tigre continua a correre e Renzi continua a cavalcarla. Ora che il pacchetto di riforme, a cominciare dalla radicale trasformazione del Senato, è sul tavolo, si capisce perché il Presidente del Consiglio non può fermarsi o rallentare. Sarebbe immediatamente sommerso dal fronte conservatore e obbligato non solo a un compromesso al ribasso, ma al blocco totale del progetto. Così invece, correndo a più non posso, può darsi che quando si tratterà di negoziare in Parlamento, e quel momento arriverà, la sostanza del progetto riformatore sarà salva. E il primo punto irrinunciabile consiste nella fine del sistema bicamerale, su cui anche Napolitano ha ribadito di essere d'accordo. Nel frattempo il pacchetto di riforme occupa i giornali e le televisioni, permettendo al Premier di costruirsi l'immagine, del resto meritata, del personaggio più dinamico che la democrazia italiana ha prodotto negli ultimi 40 anni. Se tutto questo produrrà anche voti per il PD alle elezioni europee, il successo di Renzi sarà completo, senza dimenticare comunque che il cammino parlamentare resta lungo e pieno di insidie.